colui che ve la deve rilasciare, voi la chiedete? Sono le 8:19 minuti, eccoci qua in diretta con la nostra Deborah Rosciani. Soldi e dintorni. Siamo in radio, purtroppo. E quindi? E quindi non si vede l'eleganza oggi della nostra Deborah. Ogni tanto mi piace stupirti, va bene? Bene. Buongiorno. Buongiorno. Parliamo di turismo? Benissimo. Di turisti malcapitati però, perché magari qualcuno si è comprato un pacchetto di viaggi del ventaglio. Esatto. Infatti. Anche se c'è da dire che magari a qualche famiglia italiana, anche se fosse incappata in una disavventura con viaggi del ventaglio, forse gli è andata anche meglio rispetto a quanto non sia capitato invece a migliaia di turisti inglesi che hanno prenotato un viaggio con Gold Trail Travel, che è un tour operator low cost fallito. Questa era una compagnia specializzata in viaggi in Grecia e Turchia e in amministrazione controllata, e ci sarebbero almeno 16.000 persone che sono già partite per le vacanze con Gold Trail, che adesso addirittura rischiano di avere difficoltà a rientrare in patria, mentre altre 50.000 persone che avevano prenotato un viaggio quest'estate con questo tour operator dovranno rinunciare alla vacanza. Allora, buongiorno intanto a Rosario Trefiletti, presidente di Federconsumatori. Sì, buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori. Credo che agli italiani, se anche ci fosse qualcuno che abbia in mano un pacchetto di viaggi del ventaglio, sicuramente non si trova in una situazione come questi inglesi. Trefiletti, che ne pensa? Sì, è vero, perché questi purtroppo non usufruiranno delle vacanze tanto agognate. E la questione invece italiana è che quelli che i malcapitati che potranno appunto essere stati coinvolti in questa questione del ventaglio non sono certamente tanti quanti quelli inglesi, e però ci sono casi di contratti pluriennali che francamente e questi potranno anche comportare grossi problemi di perdite finanziarie per i cittadini, ecco, questo è il problema. Adesso ci spiegherà che cosa sono questi contratti pluriennali. Io ricordo che per Viaggi del Ventaglio, una grande azienda che opera da ben 34 anni nel settore del turismo e sulla cui attività appunto è calato il sipario nei giorni scorsi. Adesso c'è un curatore fallimentare di questa azienda, c'era un buco da 200 milioni di euro e di conseguenza, peraltro, situazione resa ancora più grave dal fatto che si trattava di una società quotata. Qualcuno ha anche detto la Consob poteva anche controllare un po' di più rispetto all'operato. In realtà è stato fatto un controllo molto accurato da parte dell'organismo appunto di controllo sui mercati. Il gruppo era stato inserito nella cosiddetta lista nera e la stessa commissione di controllo sulla borsa aveva impugnato in passato ben due bilanci consecutivi del gruppo turistico, per cui insomma che non si dica che non si sapeva, perché per la verità da mesi di un possibile crack della compagnia si parlava. Trefiletti, vorrei subito rivolgermi agli ascoltatori e alle famiglie che avessero in qualche maniera, anche se le compagnie, le agenzie viaggio da tempo non vendevano più pacchetti di viaggi del ventaglio, ma qualcuno magari potrebbe anche averlo acquistato. Voi avete stilato una serie di consigli ai turisti. Che cosa devono fare? Beh, innanzitutto ha ragione lei, nel senso che le nostre agenzie italiane si sono comportate, a quanto ci risulta, piuttosto bene, nel senso che sapevano e non vendevano. Però per la verità ci possono essere anche state, e lo sappiamo, delle agenzie che invece questi pacchetti turistici li hanno venduti. Ecco, in questo caso bisogna immediatamente, in base all'articolo 92 del codice del consumo, bisogna mandare subito una raccomandata dove si è acquistato questo pacchetto per avere la restituzione integrale di quanto pagato. Questo è il primo punto. La seconda questione è se ci si trova invece coinvolti all'estero o da altre parti, appunto, o comunque mentre si sta usufruendo di questo pacchetto turistico, penso proprio pochi e ci auspichiamo che siano pochi, comunque questi devono immediatamente raccogliere tutte le testimonianze per quanto riguarda quanto non gli è dato da questo pacchetto turistico, e naturalmente appena si rientra in Italia, e noi siamo intervenuti anche sulla Farnesina a dire guardate se ci sono dei problemi di cittadini italiani all'estero che non riescono a rientrare, mi raccomando, voi dovete assolutamente intervenire per fare che ciò avvenga. Ma detto ciò, quando si rientra, entro dieci giorni dal proprio rientro, bisogna immediatamente mandare anche qui una raccomandata con ricevuta di ritorno per poter essere risarciti di quanto non usufruito durante il pacchetto turistico. Ecco, la terza cosa invece è che quando ci sono stati dei cittadini coinvolti in acquisto di pacchetti turistici di singolo anno, oppure anche non solo di singolo anno ma di più anni, come si diceva prima, In questo caso bisogna, attraverso anche l'ausilio delle associazioni dei consumatori e via dicendo, bisogna che ci sia una richiesta di risarcimento e nello stesso tempo fare un'insinuazione al passivo, perché è questa l'operazione burocratica da fare, sì, per poter essere risarciti, per le società che falliscono, sì. E contestualmente, contemporaneamente, fare delle domande di risarcimento presso il fondo del turismo che abbiamo nel nostro paese, anche se riteniamo che risorse all'interno di quel fondo non ce ne siano tante. E però queste sono le cose da fare. Allora, il Fondo di Garanzia Nazionale ci ha spiegato anche, tra l'altro non conoscevo la dinamica di questi pacchetti poliennali, quindi mi sta dicendo che ci sono addirittura delle famiglie, sì, tre filetti che si abbonano a dei tour operator per, sì, poter avere delle vacanze pluriennali con loro, per sottoscrivere dei pacchetti vacanza pluriennali? Sì, proprio così, cara Deborah Rosciani. Proprio ci sono state delle famiglie, beh, c'erano queste opportunità, chiamiamole così, opportunità che poi si sono rivelate quelle che sono, di poter fare degli acquisti poliennali di vacanze, in buona sostanza pagare determinate cifre, migliaia e migliaia di euro, per poter avere sconti, per poter, diciamo così, essere trattati come clienti privilegiati e via dicendo. Ma in questo caso quelli che hanno pagato migliaia di euro per pacchetti turistici poliennali, non è che perdono solo il 2010, questi cittadini si perdono il 2011, il 2012, cioè tutti i pacchetti che si perdono, perché rischiano di perdere, e c'è anche obiettivamente e concretamente la possibilità che ciò avvenga. Quindi noi diciamo di immediatamente mettersi in contatto con le associazioni dei consumatori, in questo caso Federconsumatori è prontissima e disponibilissima con i propri professionisti, con i propri sportellisti, all'SOS Vacanze di Modena, che è il centro nostro specializzato. Ecco, in questo caso naturalmente bisogna fare tutte le cose che dicevo prima, l'insinuazione al passivo, le domande di risarcimento e anche, insisto, quello del fondo di garanzia. Esatto, che tra l'altro non abbiamo tempo, tre filetti, questa mattina di affrontarlo. C'è stata anche una proposta addirittura del Ministero degli Affari Esteri che ha detto che sarebbe il caso di istituire un meccanismo che, dietro il versamento di un contributo minimo intorno ai 50 centesimi a carico di ciascun viaggiatore, consenta di prestare un'efficace assistenza fino al rimpatrio dei turisti vittime dei fallimenti di operatori del settore. Magari torneremo a parlarne più avanti, sì. Adesso sembra che questo fondo di garanzia non abbia in pancia più di 250.000 euro, e mi rendo conto che magari non sarà necessario per i craccati dei viaggi del ventaglio, ma in passato non so quanto abbia funzionato questo fondo. Guardi, tre secondi, una battuta velocissima, non ha funzionato fino a quando c'erano le risorse. Adesso noi abbiamo chiesto innanzitutto il chiarimento su come sono state spese queste risorse. Ci sono delle risorse disponibili pari a circa 3 milioni di euro per poter immettere su questo fondo, quantomeno. Questa è una nostra richiesta che è stata accettata dal Ministero dello Sviluppo Economico attraverso le multe dell'antitrust. Si tratta poi di verificare se questa fattibilità dei 3 milioni esista veramente e realisticamente. Noi lo abbiamo chiesto e ci è stato detto che si poteva fare questa operazione, e quindi insieme anche il tour operator, la Stoi, che è l'associazione dei tour operator, sì, Roberto Corbella. Stiamo portando avanti questa battaglia con grande determinazione. Grazie, devo salutarla, buona giornata. Alessandro, buongiorno. Riforma del condominio oggi a Salvadanaio. Ciao. La riforma del condominio. Bene, noi parliamo di evasione fiscale nel nostro sondaggio perché qualcuno ha proposto: ci vogliono gli ausiliari del fisco, come gli ausiliari del traffico, quelli che vanno a stanare gli evasori fiscali. Noi nel nostro sondaggio vi chiediamo: ma voi, se non vi rilasciano lo scontrino, la fattura la chiedete oppure no? Radio24.it oppure 800 24 0024, la nostra Rosa è già pronta, carica anche lei dal weekend, a prendere le vostre telefonate. Alle 8.32 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora parliamo di evasione fiscale nel nostro sondaggio di oggi. Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? Ieri sul Corriere della Sera Ernesto Galli della Loggia ricordava un po' le cifre, no? Del nostro sport nazionale, l'evasione fiscale, circa 100 miliardi di euro peraltro all'anno, peraltro una stima che recentemente il Sole 24 Ore ha detto va rivista anche al rialzo, almeno 120-125 miliardi di euro di evasione fiscale all'anno. Allora, noi vi chiediamo oggi, da qui prendiamo spunto il nostro sondaggio su Radio24.it, ma voi, se non vi fanno la ricevuta fiscale o se non vi fa lo scontrino colui che ve lo dovrebbe fare. Lo chiedete oppure no? Chiamateci anche 800 24 00 24, gli sms al 349 238 6666. Perché prendiamo spunto? Perché un paio di giorni fa sulla Padania, di cui saluto un collega, Marcello Ricci della Padania, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Marcello. Ha lanciato una provocazione, possiamo dire così, che tra l'altro è stata anche raccolta già, credo, dall'onorevole Bitonci della Lega, a dire: dopo gli ausiliari, o sulla stregua degli ausiliari del traffico, perché non pensiamo agli ausiliari del fisco? Qualcuno che vada un po' a stanare questi evasori, magari con una bella ricompensa in premio, vada a stanare questi evasori. E come, Ricci, che facciamo? La delazione, la spia? Perché questa idea degli ausiliari del fisco? No, non si tratta di fare né la spia né altro, si tratta di creare una coscienza morale, di far uscire le persone da quella dicotomia morale per cui da un lato condannano il fenomeno di chi non rilascia la ricevuta, dall'altro acquiescentemente lo subiscono, anzi delle volte addirittura lo chiedono. Quindi c'è come un azzoppiamento di personalità al cittadino, il quale cittadino non si rende conto che la tassa evasa ricadrà su lui e su tutti gli altri che pagano i tributi. Mm. E ricade anche, stranamente, questo non si è detto, su chi evade. Perché chi evade non fattura, non fatturando, quando va a chiedere il credito in banca, la banca non lo eroga sul patrimonio, lo eroga sul fatturato. E chi non fattura, che fatture porta? Tra l'altro, voglio parlare magari del figlio del barista che si è messo alla cassa e per rubare i 10 euro non fa lo scontrino, ma voglio parlare di cose come a me è capitato, per esempio al ghetto a Roma, a piazza delle 5 scuole, è il ristorante che fa, si pagano 35 euro a persona, ci sono turni di 40 persone irregimentate che entrano perché è un ristorante tipico e che ti fa la fattura sul pezzettino di carta, cioè non fa la fattura. Cioè quelli sono son grandi numeri. Quindi quelli sono grandi numeri. Cioè sono grandi numeri perché lei moltiplica di 35 per 40 per due turni più il turno del pranzo. Ma infatti lei ha proposto anche, oltre agli ausiliari che poi ci deve spiegare cosa dovrebbero fare questi ausiliari del fisco, anche una campagna TV magari, ricordati che chi non ti rilascia lo scontrino fiscale o la fattura fa pagare le sue tasse a te. Questo potrebbe essere lo slogan. Rettile, come quella che si è fatta per il fumo, quella che si fa per tante cose, è dire che appunto intanto l'evasione fiscale è un reato equiparabile per conto mio al furto, e che quello che non si risparmia in questo momento si ricade sulle spalle dopo. Ma questi ausiliari del fisco che dovrebbero fare? Cioè addirittura messi in un albo, poi persone più esperte di me nel settore, come persone che segnalano un call center e l'abuso. Ma già si può fare però la Guardia di Finanza, no? La Guardia di Finanza interviene un secondo tempo. Si segnala l'abuso. Una volta segnalato l'abuso, non è che la singola segnalazione provoca l'intervento della Guardia di Finanza. Quando se su quell'esercizio arrivano molte segnalazioni, un certo numero, e allora a quel punto scatta il controllo della Guardia di Finanza. Tipo il ristorante dove va lei, no? In quel caso. Esatto. Allora si manda. Io direi che a questo punto va fatto quello che Maroni ha fatto per i mafiosi, vanno fatti dei provvedimenti di confisca del locale. Addirittura. Vabbè, certo, molti ci dicono è un reato grave. No, ma molti ci dicono, Ricci, intanto voglio salutare anche gli altri due ospiti che si stanno ascoltando. Molti ci scrivono giustamente, in alcuni casi per gli studi di settore rilasciare lo scontrino non è più obbligatorio. Ovviamente noi vi chiediamo, laddove, non so, anche la fattura, quando andate dal dentista e vi dice è così, ma se volete risparmiare il 20% è così, dall'idraulico, insomma, dai, ci siamo capiti. Non facciamo quelli che fanno finta di vivere su Marte, che viviamo tutti in Italia. E allora voglio salutare Leonardo Facco, che ritrovo con piacere, imprenditore, buongiorno. fondatore, bene, fondatore del Movimento Libertario. Tra l'altro mi risulta, intanto mi faccia salutare anche Vincenzo Bacarella, buongiorno. Salve, buongiorno a tutti. Dal quale ritorna, anche lui è un ritorno su Radio 24, tra poco vi spiegheremo perché aveva lanciato una proposta che sembrava accolta da tutta Italia con un entusiasmo incredibile legato allo scontrino fiscale e poi vedremo che fine ha fatto. Leonardo Facco, allora, lei tra l'altro ha scritto sulla Padania, mi risulta, è stato anche... Io sono un leghista d'antan. Ah, è un leghista d'antan. 80, e che effetto le fa? Favorevoli alla secessione, di quelli che erano sul Po, sì, di sì. Quelli che notano con piacere che il leghismo di oggi ha l'accento romano. Lei che ha fondato il Movimento Libertario, che dice pagare le tasse è sbagliato, che effetto le fa vedere sulle colonie della Padania? Intanto saluto tutti gli ascoltatori. Sì. Io non dico questo. Io dico che le tasse sono un furto e non pagarle legittima difesa, che è una cosa ben diversa. Sì. Ma partiamo sulla questione di questi ausiliari del traffico, o come le ha chiamate il Corriere della Sera l'altro giorno, le ronde fiscali. Sì. Le chiamate così la Padania. Cioè il Corriere ha rilanciato la Padania, il suo giornale di riferimento. Io ricordo quando lavoravo io alla Padania si vendevano 90.000 copie e nessuno la riprendeva. Oggi che vende 3.000 copie invece... Allora... la mia memoria è abbastanza lunga e è lunga abbastanza per ricordare che ho qui davanti a me ad esempio il manuale di resistenza fiscale del sedicente governo provvisorio della Padania, lanciato proprio contro il fisco esoso, e parlo del 1996. Un po' prima, già la Lega nel 93 lanciò una forma di obiezione fiscale. Ancora nel 2007 la Lega parlò in 13 punti di dire basta questo fisco esoso. Quindi primo punto: se in un paese si paga la pressione fiscale al 70%, sì, oggi valutata, beh, mettersi ad inventare gli ausiliari del traffico è abbastanza originale. Tra l'altro, del fisco. Il sedicente governo della Padania nel 1996, nella Carta dei diritti dei cittadini padani, diceva: i cittadini hanno il diritto di rifiutare ogni onere economico e giuridico che venga loro addossato senza il loro esplicito consenso. Quindi è chiaro che questa roba qui da ronde ricorda moltissimo, lei ha citato giustamente la delazione, ma io andrei oltre, ricorda moltissimo quei regimi straordinari, forieri di libertà. Ma adesso sa, c'è il federalismo, quindi pare che i comuni che avranno questa possibilità nei prossimi anni di avere delle tasse più controllate a livello locale, magari vogliono... gli evasori se sfuggono... Ma io sono d'accordissimo al federalismo, caro Milan, però... Io abito a 40 km da un paese che si chiama Svizzera. La Svizzera è uno dei 4 paesi più liberi al mondo. La pressione fiscale in Svizzera è intorno al 30%. Ecco, visto che quando parlano di federalismo i leghisti fanno rivoltare nella tomba Gianfranco Miglio, si prendessero almeno la briga di copiare la Svizzera. Non dico di copiare, invece qui copiano la Cina e Cuba. Allora capisce che un paese che già è messo abbastanza male, in cui il debito pubblico ogni mese continua ad aumentare, in cui le spese dello Stato sono impressionanti, e in cui ovviamente il leghismo oggi è legato alla greppia romana, è chiaro che l'invenzione si chiama ausiliari del fisco. Del fisco. Allora, io voglio andare, due ascoltatori, poi andiamo dal nostro Bacarella. Daniele da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti quanti presenti, agli ascoltatori. Che dice? Lei la chiede la fattura, la chiede sempre la fattura. Io sempre sono odiato, soprattutto in campo sanitario, perché essendo un assicuratore ho delle polizze sanitarie, rimborso spese, specialistiche, visite, quindi vengo visto anche in cagnesco. Ma a parte questo, è impressionante il fatto di chiedere una fattura e non avere soltanto la differenza IVA, ma di avere quasi il doppio degli importi. E questa è una cosa impressionante. Se chiede la fattura costa il doppio rispetto che senza fattura. Io ho fatto degli piccoli interventi di un costo di 300 euro, chiesta la fattura 560. Però lei la chiede. La chiedo perché mi viene rimborsata. E se no? Altrimenti poi ovviamente un cittadino italiano che vede delle differenze sostanziali, ovviamente i suoi conti li fa. Non la chiederebbe senza rimborso? Forse. forse no. Forse no. Il discorso è soltanto un altro che ripetevo all'inizio, il senso civico che dovrebbe esserci di tutti, ma non è presente perché poi, essendo un reato l'evasione fiscale, diceva l'ospite che avete, il primo, adesso non ricordo il nome, Ricci. Ma non viene punito come dovrebbe essere, cioè un reato è come rubare la stessa oggi cosa. Oggi Bersani fa questa intervista a Repubblica, è tornato dagli Stati Uniti, con anche molte critiche, dice succede il finimondo qua in Italia e Bersani sta negli Stati Uniti, viaggio programmato, ha detto in America gli italiani d'America mi dicevano ma perché non fate come qui, chi non paga le tasse va in galera. Lo stupore degli italiani d'America. Voglio, prima di andare all'ascoltatore, voglio introdurre Vincenzo Bacarella. Bacarella, allora, è un imprenditore, fondatore di Novanet, questa, aveva lanciato, aveva vinto un concorso nel novembre scorso, un'idea per l'economia, questo era il concorso. La proposta era, come si fa in diversi paesi del mondo, credo anche in Cina per esempio, visto che è stata citata, legare gli scontrini fiscali ad una lotteria premi, no? Una sorta di gratta e vinci, ci può rispiegare com'era questo meccanismo? Esatto, praticamente è un metodo dal basso per contrastare l'evasione fiscale, quindi anziché fare uso di metodi repressivi che sono costosi e poi alla fine non funzionano, cerchiamo di sfruttare, di fare leva su un vizio tutto italiano che è quello del gioco per contrastare l'evasione fiscale. Quindi associamo all'emissione di scontrini e fatture una sorta di lotteria nazionale permanente tipo Win for Life. Sì. Quindi così uno è invogliato a chiedere la fattura perché dietro c'ha un, che ne so, una sorta di gratta e vinci da, se è una fattura da 50 euro corrispondente, no? Da 50 euro. Esatto, una sorta di codice. Il metodo innovativo da me proposto consiste nell'associare non una cifra fissa alla vincita, ma un moltiplicatore della cifra spesa. Quindi io che spendo per esempio 50 euro in profumeria, allo scontrino potrebbe essere associato per esempio un moltiplicatore 3x, quindi posso vincere, per vincere 50 euro per 3. Quando uscì questa proposta ripresa dai giornali, io ricordo che ci fu anche abbastanza attenzione da parte della politica, no? O sbaglio? Sì, tantissimo. Cioè? Chiamò qualcuno? Questo metodo è stato implementato con grandissimo successo in Cina, in Corea del Sud e in Brasile. Quindi la chiamò qualcuno a dire? Assolutamente no, assolutamente. Ciclicamente viene fuori questa cosa, ultimamente anche... sui giornali è uscito con grande entusiasmo tutti a dire beh è una bella idea, però non l'ha chiamata nessuno. Purtroppo in Italia molte cose vanno così, ciclicamente se ne parla, però alla fine non si concretizza niente. Cioè, ma qualcuno che non so, anche privatamente gli ha detto bella idea, qualche politico che gli ha detto bella idea, bisognerebbe prendere e portare in Parlamento. Privati sì, ci sono stati, ma dalla politica zero, nessun feedback. Ah, dalla politica zero. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Allora, visto che parliamo di evasione fiscale, vi chiediamo, voi richiedete la fattura, lo scontrino, quando non vi viene dato? Il 53%, vi state dividendo, perché il 53% dice di sì, anche se poi, come il nostro ascoltatore prima di Roma ci ha detto, io lo chiedo, però perché la scarico? Magari non potesse, cioè non avesse il rimborso? Magari non la chiederei, perché a volte mi trovo una cifra dimezzata se non chiedo la fattura. Domenico da Caserta, eccoci, buongiorno. Buongiorno dottor Milano, a lei e radioascoltatori. Dica. Allora, io mi definisco nel piccolo un ausiliario del fisco, perché anch'io quando vado in un esercizio commerciale, faccio degli acquisti e non mi viene rilasciato lo scontrino fiscale, non solo lo esigo, ma qualche volta ho telefonato anche la finanza per segnalare il problema. E che succede? Di tutta risposta mi è stato detto guardi, non possiamo venire a fare dei controlli se lei non viene da noi a fare una denuncia scritta. Allora, come lei anticipava, io abito nella provincia di Caserta, quindi puoi immaginare lo stato di preoccupazione che può avere un cittadino nel dover andare a mettere nero su... Perché non può essere anonima, no? Non può essere anonima. Esatto, mi è stato detto questo, anche se mi sembra una cosa assurda, cioè io da cittadino telefono, segnalo che c'è un esercente che non emette scontrini fiscali E niente, non parte. Ho capito, però Domenico, capisce che il confine tra la delazione, se dal punto di vista anonimo lei potesse dire guardate che lì non rilasciano le fatture, questo in maniera anonima si presterebbe anche il fianco a telefonare, chissà quante telefonate, anche per magari screditare un artigiano, uno che ha un esercizio commerciale e che magari rilascia tutte le fatture del mondo. Potrebbe essere il numero magari di segnalazioni, però credo che un esercente che emetta tranquillamente scontrini fiscali ricevute non debba avere alcun tipo di problema. Tra l'altro non so se lei, immagino di sì, ma quante volte è capitato di farsi portare anche delle pizze da sport a casa? Sì, sì, anche io lì, non ho certo. mai visto una ricevuta fiscale. Esatto. È raro anche lì. Domenico, la ringrazio. Io voglio tornare dal nostro Marcello Ricci della Padania. Sa che Ricci, molti ci fanno delle critiche anche come ascoltatori nei messaggi. Dicono, qualcuno dice questo giornalista della Padania dura poco. Anche Facco ci ha detto, ma insomma, non è molto la linea della Lega, o meglio, non è stata forse la linea della Lega in passato, no? Beh, la linea della Lega, no, assolutamente non è interpretabile nel modo di Facco. La Lega non parla di questo, in ogni modo io vorrei lasciare da parte quella che è la Lega. La Lega ha un principio, il federalismo. Il federalismo vuole il controllo dal basso. Quando si ha il controllo dal basso è chiaro che uno si rende conto se il proprio vicino paga le tasse come lui e gode i servizi come lui. Chi gode dei servizi deve pagare. Su questo penso che nessuno abbia da dire. Poi sulle posizioni libertarie avrei qualche cosa da osservare. Scusate se esco dal campo, ma uno dei libertari maggiori, Pannella, parlava dello spinello libero e il professor Maira, docente in televisione, ha chiaramente detto che anche un singolo spinello nel giovane danneggia il cervello. Quindi i libertari bisogna tenerli, guardarli con un certo occhio critico, molto critico. Sì, lei dice. Insomma, la libertà cessa dove si lede il diritto altrui. Vediamo, non so. Le tasse, lei del diritto altrui. Lei del diritto altrui. Facco, lei dice invece una resistenza contro un furto dello Stato. Vabbè, smitizziamo questa leggenda. Mi ha perfino convinto, anche a me mi ha convinto Oscar Giannino, che se pagassimo tutti le tasse si abbasserebbero. Questa è un po' una leggenda, un po' una barzelletta. Ah, ecco, infatti, perché io avrei citato ancora proprio. No, però mi ha convinto, ma ha fatto un po' fatica, Ma sa, Giannino è molto persuasivo. Bisogna studiare nella vita. Mi applicherò un po' di più. Però il dato di fatto, Bersani, che ne pensa di quello che dice Bersani? Sì, ecco, bravo. Io proprio da in galera che... richiamando ancora Oscar Giannino, visto che è un amico comune, sì. Il quale ha scritto un libro che non dimentichiamolo mai, si intitola Contro le tasse. Parlando degli Stati Uniti d'America, Giannino disse che il presidente Reagan abbassò l'aliquota marginale all'ora massima. E cosa accadde? Accadde che il 10% più ricco della popolazione passò a pagare dal 44 al 55%, gli straricchi passarono a pagare dal 18 al 24%. Questo perché? Perché sentire parlare gente come Domenico di Caserta, che fa l'ausiliario del fisco, io in una zona come abita lui dovrebbe fare l'ausiliario del PIS eventualmente, visto che è una delle quattro regioni in mano alle mafie. Beh, ho capito, paese, però e dove maggiormente ci ha anche spiegato la difficoltà nel farlo, proprio no? Ma, ho capito, però voglio no, dire, si capiva. Ma si rende conto che, come giustamente lei ha fatto notare, la delazione per telefono, qui se uno ha un concorrente lo chiama la finanza e gli dice solo perché il concorrente gli dà fastidio, quello non fa gli scontrini. Ma è questo il paese in cui si vuole vivere. Non si vuol vivere neanche nel paese in cui ci sono 125 miliardi di evasione fiscale. Sì, ma ecco, anche quel dato lì, vada a vedere dove sono i 125 miliardi e da cosa sono causati i 125 miliardi, perché sono tutti legati alle criminalità organizzate. Questo è il problema. Questo è il grande problema di cui non si affronta mai. È bello sparare le cifre ma non approfondirle. Ma tornando agli Stati Uniti, chissà perché gli italiani d'America non tornano in Italia però. Perché il sistema fiscale americano sicuramente mette in galera chi non paga il fisco. Ma il sistema fiscale americano è quello che ha una pressione fiscale del 32%. Questo è vero. Guardate che allora qui si parte dal principio che la tassazione, che altresì si chiama imposizione, non è altro che una forma di aggressione. Ma quindi secondo perché lei se abbassassero le tasse, se abbassassero l'imposizione fiscale, secondo lei gli italiani pagherebbero di più? Ma è chiaro, perché un conto è essere schiavi al 10%, un conto è essere schiavi al 30%, un conto è essere schiavi al 70% come lo siamo. Vediamo noi. Cosa e ne dato pensa. Che non esiste libertà politica senza libertà economica, questo non è un paese ma è una galera. Vediamo che ne pensa Maria Grazia da Palermo. Buongiorno. Buongiorno. Dica. Dunque, io premetto che sono una pensionata dell'Inpidat e quindi le tasse le pago tutte. Però, a parte il fatto che a Palermo nei negozi lo scontrino lo lasciano ormai tutti, quando si va da un professionista o si chiama un artigiano, se io chiedo la fattura insistentemente devo mettermi in conflitto con questa persona, pagare di più, sì. E poi che cosa me ne faccio? Perché lo Stato non mi consente. E questa è la questione di cui... E lei quindi che scelta fa? A volte la chiedo se è facile ottenerla, a volte no. Poi vorrei dire una piccola cosa. Il personale addetto a esaminare le dichiarazioni dei redditi dovrebbe essere, a mio parere, usato meglio. Mi spiego, io pago l'IRPEF attraverso l'INPDAP, non posso evadere assolutamente. Ora mi arriva, siccome l'INPDAP nel 2007 ha pagato in ritardo la mia IRPEF, sì. Mi arriva una piccola cosa, 40 euro da pagare quando... perché l'IRPEF è stata pagata in ritardo. Se le persone che hanno esaminato la mia dichiarazione avessero esaminato quella di un ristoratore, di un idraulico o di filologia, sicuramente avrebbero trovato delle falle un poco più significative. Va bene, io Maria Grazia la devo ringraziare e con lei concludere, detto che ringrazio tutti, il tema è sempre molto aperto quando si parla di questi temi che poi riguardano tutti noi, come sempre siete in tanti a chiamare e a votare per dire sempre al 52% dite di sì, chiedete la ricevuta, chiedete lo scontrino fiscale, fate i bravi italiani, diciamo così, ma poi chissà come. Saluto e ringrazio anche Gaia Romani, oggi in redazione, e Sara Spreafico che appare e saluta anche lei con la manina, e Peter Bescapè, l'alpino Bescapè. A domani.